Bentornati bella gente, benvenuti a Radio Tassello. Io come sempre sono Lele. Oggi parleremo di cinema, parleremo di viaggi. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ma avete sentito anche voi? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Cioè ma ce l'ha con me? Dico ma ce l'hai con me? Cioè ma ce l'hai proprio con me? Ehi bello, vieni qua se c'è coraggio, capito? Marchese. Salve, che so, giallone ste tedesco. Paccarelle, sor Marchese. Buone? Buongiorno, sor Marchese. Ben versato, sor Marchese. Così, figlio di sta spaccarella. Grazie. Buona è diventata Rosina. Grande, sì. Eccoli. Ma, scusate, ma devo dire buongiorno anch'io? Io, semmai al limite, posso dire ciao Umbe. Ciao, ciao Lele. Ciao a tutti. Abbiamo qua con noi Umberto, che è il ragazzo che allo spazio anteprima si occupa del Cineforum. Quindi, se avete qualsiasi dubbio riguardo a film di ogni sorta, di ogni età, potete riferirvi a lui perché è veramente una bibbia per quanto riguarda queste cose. Parlaci un po' del Cineforum qua a Spazio. Dunque, il Cineforum cominciò, quando è stato? Novembre diciamo, del 2009, sì. E sì, era novembre 2009, abbiamo cominciato con un film che temevamo che nessuno sarebbe venuto a vederlo, perché era un film senza uno straccio di dialogo, anzi vabbè, diciamo che ce n'era poco, molto poco dialogo. Tipo tutto... un film muto? No, era un film con la musica e tutto, sì, non era muto, era che l'età, l'anno era il 68. Okay, si chiamava okay. Dillinger è morto, regia di Marco Ferreri, e è stato un buon inizio perché alla fine c'è venuta tanta gente, capito? Meno male. E pur essendo che era un film che non si diceva nulla, non succedeva quasi nulla. C'era un tizio che si cucinava da mangiare da solo perché la moglie aveva il mal di testa e dormiva. E poi si guardava i filmini della vacanza, che così per ricordarsi i bei tempi andati. Poi ad un certo punto si rende conto che la sua vita non ha più un senso, allora comincia a lavorare con una pistola, a costruire la sua pistola. Ah giusto, c'è una cosa proprio tranquilla. Sì, cioè... sì, ma abbiamo cominciato con una cosa sì, un po' per dire... Non vi preoccupate, cioè i film saranno bene o male tutti quanti così, cioè, capito? Non vi preoccupate, se poi vi vengono in mente delle idee psicopatiche è normale, sì. Questo, ok, ottimo. Senti, sì, un po', sì. Ma c'è un genere che si predilige oppure si spazia? Si spazia. Ok, ok. Cioè, non sono film di genere, ecco. In alcuni casi forse sono stati fatti dei film di genere, però comunque sia, mi viene in mente il primo film di genere forse che abbiamo fatto è stato Dillinger, no, come si chiama? L'infernale Quinlan, che però okay. È un poliziesco, però è stata la rivisitazione del poliziesco da parte di Orson Welles, che voleva dire, ho sentito dire che sì, che è stata questa cosa qua, voleva dire praticamente porre fine al poliziesco come è stato conosciuto fino ad ora. Quindi non è più un genere, diventa un'altra cosa. E poi vabbè, Kubrick non l'abbiamo ancora fatto, ma i film di genere di Kubrick. Ok, tu sei un appassionato quindi, sì, di, sì, cinema, giusto? Sì, moderatamente, sì, dai. Moderatamente. Hai dei film a cui sei molto legato? Sì, ce ne sono parecchi. Sarebbe più facile forse parlare di registi a cui sono molto legato. Tipo? Perché, vabbè, i film ce ne sono tanti, ma alla fine chi li fa sono i registi e dopo un po' si capisce che il regista nel suo film dice molto di sé, quindi uno vede il film più per il regista forse che per il film in sé. E vabbè, i miei registi preferiti sono... beh, ce ne sono molti. Ci sono, vabbè, Ferreri ovviamente, che abbiamo proposto come esordio scoppiettante nel lontano novembre 2009. Poi abbiamo molti registi italiani, tipo, vabbè, Fellini, Risi. Diciamo, vabbè, facciamo un elenco di quelli preferiti. Ok, ecco. Ok. Vabbè, c'è Kubrick, che piace a tutti quanti. Ferreri, Pasolini. Stavo per dimenticare Pasolini. Che però più che come regista, diciamo come uomo in sé in generale. Tra l'altro abbiamo avuto anche una mostra, esatto, sì, conclusa proprio venerdì, mi sembra. Certo, una mostra, okay, fotografica con citazioni di testi, per opere di Pasolini. E poi chi altri? Vediamo. Sì, vabbè, per ora mettiamo questi, poi magari me ne vengo in mente. Invece prima fuori onda stavamo parlando del fatto che uno dei tuoi film preferiti era Il Marchese del Grillo. Certo, sì. Perché sì. Proprio il Marchese? Perché il Marchese del Grillo e perché Alberto Sordi? Questa è una bella domanda. Allora, il Marchese del Grillo perché è un personaggio, come dire, in cui mi ci vedo in un certo senso. Cioè, è un personaggio che soffre di, come dire, è un personaggio che vive a Roma, nella Roma papale dell'inizio Ottocento, diciamo. Cioè, una Roma in cui... tutto è già stato deciso, tutto è già stato fatto. Che anzi, poi, non è stato fatto niente. Però non c'è... secondo me non è molto lontano da come è adesso. Esatto, sì, okay. Sì. Anzi, in realtà non è stato fatto niente. Bravo. Nella Roma papale del tempo, e anche forse adesso non si sa, però nell'Italia contemporanea di oggi, insomma. E questo marchese vive la sua situazione, la sua condizione di cattività forzata. Con un po' di ironia, nel senso che l'unica cosa che gli riesce da fare è fare scherzi in continuazione a tutti quelli che sono i suoi amici, oppure il Papa stesso, insomma le figure di riferimento, le autorità dell'epoca. Fa scherzi in continuazione, si diverte lui con il suo servo, com'è che si chiama, se non me lo ricordo, Cicciotto, vabbè. Insomma, si diverte con lui a organizzare degli scherzi anche abbastanza cattivelli. E però per il resto mostra anche abbastanza evidentemente una certa, non dico amarezza, però una voglia di andare altrove. Ovviamente adesso qui forse non è proprio il mio caso, però mi piace il personaggio, ecco. Ma quindi di conseguenza sicuramente sarai legato a qualche frase detta dal Marchese del Grillo. Se ti ricordi qualcuna ci piacerebbe sentirla. Dunque, ce n'è una che è divertentissima. No, però io mi dissocio da quello che verrà detto. Vai tranquillo. Allora, ci dissociamo tutti, è la chiaro. Scena iniziale, diciamo, quando il Marchese gioca a carte in una bettola della periferia romana, piena di delinquenti, ovviamente. A lui gli piace mescolarsi insieme al volgo, perché è un marchese, sì, però gli ambienti troppo leccati lo disgustano. E quindi è lì a giocare a carte, ovviamente tutto d'azzardo, cioè tutto illegale, eccetera. E a un certo punto c'è un tizio che... no, lui si accorge che un tizio sta barando e allora si arrabbia, lo piglia per il piede e dice: oh, qua vedo una carta che, insomma, tu stai barando. E dice: no, io non vedo nessuna carta. Come no? Io la vedo come la carta. Non c'è nessuna carta. Allora il suo amico, del marchese intende, il suo il suo servo, il suo servitore, tira fuori il coltello, dice: ah sì, non vedi la carta? Allora te la faccio vedere io la carta. L'altro, anche lui, tira fuori il coltello e uno dice: adesso arriva, si fanno accoltellate come in ogni locale, come si deve, della Roma papalina dell'Ottocento. Ok, cioè proprio un locale dove ci si può andare a bere una birra. Sì, sì, proprio a cuor leggero. Quante volte l'hai visto questo film? È una marina. Ho fatto la citazione perché adesso te la dico. Vai. Allora a un certo punto stanno per accoltellarsi finché arriva la polizia e arrestano tutti perché dicono: non si può fare questo, questo, quest'altro, tutto illegale, eccetera. Vengono arrestati, arriva il capo, cioè è arrivato un poliziotto, poi è arrivato il capo dei poliziotti, vede il signor Marchese e dice: ma signor Marchese, ma cosa ci fa lei insieme a questa gente qua? E lui dice: mi ci ha messo questo coglione del tuo poliziotto. E lui, il poliziotto, dice: ma come, lei è un marchese? E dice: sì, io sono un marchese. E allora dicono, siccome lui ovviamente è un marchese, gli altri se ne vanno in gattabuia. E lui invece no. E qualcuno si arrabbia e lui dice: mi dispiace, lo so che voi adesso dovete andare in galera, no, però la sostanza è che io so io e voi non siete un cazzo. Comunque sia, cioè, questo è il personaggio. Nonostante questo film sia stato fatto molto tempo fa, sì, e nonostante comunque rappresenti un'epoca parecchio passata, è molto attuale. Certo. Perché se tu ci pensi che chi ha un po' più di potere lo esercita proprio in questa maniera. Cioè fa quello che gli pare e poi dopo chi va in galera sei te. Certo, sì. Cioè è pazzesco. Sì, ragazzi, bisogna anche considerare ovviamente che il regista è Monicelli, Mario. Okay. Monicelli. E ovviamente l'avrà fatto pensando alla realtà italiana dell'epoca, l'ha rappresentato nella Roma dell'Ottocento, dicendo: qual è secondo me il momento storico italiano dove più si può esprimere questa cosa, intendo della sua contemporaneità di Monicelli, certo, anche della nostra, certo. E ha scelto la Roma dell'Ottocento. Ma il Cineforum qui a Spazio quando c'è? C'è ogni due lunedì. Ok. Quando partono i cicli, ovviamente. Qual è il prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento lunedì 20 con La prima cosa bella di Paolo Virzì. Stavo la leggendo. Prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Vai. Grazie. E poi ci sarà l'ultimo film del ciclo di questa stagione primaverile, che sarà ormai, vabbè, sarà già estate, il 4 luglio, La messa è finita di Nanni Moretti, e finiamo per questa stagione. Perfetto. Forse. Progetti per il futuro? Esatto, perché abbiamo qualche altro progettino. Quindi magari si riuscirà a fare qualcosa a luglio, però anche vada, andiamo a settembre, però qualcosa c'è. Allora, prima di tutto c'è un programma di serate, di sonorizzazione di film muti, però una cosa diversa dal solito. Di solito si fanno i film, quelli abbiamo anche provato a fare questo, è stata una bella serata. Lulu e il vaso di Pandora abbiamo proiettato, sonorizzato, eccetera. Però fare qualcosa, e questi sono film molto lunghi, no? Fare qualcosa di più breve, dei pezzi brevi di film, cortometraggi di sempre muti dell'epoca, sonorizzati da diversi gruppi. È un progetto che stiamo lavorando e potrebbe arrivare a vedere la luce abbastanza presto. Ecco. Ho capito. Questo, poi un'altra cosuccia, bellissimo. E anche, se si riesce, qualche informale serata di Cineforum sotto le stelle, come si dice, cioè all'aperto. Sarebbe bello. Sì, sempre se il clima lo permetterà. Esatto. Senti un po', so che hai portato un giochino per i nostri ascoltatori. Esatto. Come funziona? È un gioco, indovina il film. Bello, dai, faglielo subito che voglio vedere cosa combina. Allora, dai. Sì, facilissimo, bisogna indovinare il film, il titolo del film, a partire da un estratto di dialogo che ora vi presentiamo. Questo è il primo pezzo. Ma, oh madre, ma scusi, ma non ho ancora finito questo gioco di massacro. Ma perché l'ha preso così? Non è abbastanza un disastro questa scemenza che ci è capitata? Ma perché fammele pagare tutta me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Che cos'è che ci guadagna poi, scusi? Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata. Lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh? E che dalla legge che ci verranno a salvare, eh? Questo è il secondo pezzo. Avete niente da $10? Francamente, signora, per questa cifra la scelta direi che è piuttosto ristretta. Però qualcosa dovrebbe esserci, vediamo. Un oggettino di puro capriccio, per chi ormai abbia tutto il resto. Un formanumero telefonico in argento, a 6,75 tassa federale compresa. Ora ascoltate il terzo pezzo. A un tratto il moribondo si rizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò tutto come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede: Eureka! Ebbene, anch'io ho trovato, Duanel. Sei un ignobile plagiario. E in conclusione abbiamo il quarto pezzo. Ecco. Tutto ritorna come prima, accendi! Tutto è di nuovo confuso. Le luci! Ma questa confusione sono io. Tutte le luci! Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Benissimo ragazzi, se volete rispondere a questo quiz potete farlo tramite la pagina Facebook di Spazio Anteprima o tramite sempre la pagina Facebook del gruppo del Cineforum di Spazio Anteprima. Tutto chiaro? Benissimo. Umberto, che devo dire? Io ti ringrazio, è stato davvero un piacere poter parlare con te. Spero di ritrovarti ancora nelle prossime puntate perché il cinema è sempre una cosa interessante. Il cinema non finisce mai. È vero, non finisce mai il cinema. Non dirlo a me che io lo faccio sempre il cinema. Guarda, ti dico, ma sai che ho dovuto fare anche testamento? Ma come testamento? A me sembri in splendida forma. Ah, guarda, lascia stare, però io sono un po' un buffone. Un buffone, veramente? Come mai? Guarda, guarda, lasciamo perdere. Ascoltiamoci sta canzone, va. Il testamento di buffone. Talco. Storia franta e vuote di malinconia, nebbia che affonda giorni e solidarietà. Ci dico son precari e nuvole utopia, ma là nella metropoli sprofonda la realtà. Senza filtri nelle strade scende il buffone, salta sopra i cocci di un'ormai sorda città. Non c'è spazio per compianto né moderazione a chi ha strazzato i suoi valori per cerca tranquillità. Non correte, non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte, non scappate via, nel fango del benessere spendete la vita. Tra voli disperati di fantasmi e falsi giorni. Non correte, non scappate via, svegliatevi pagliacci, prima o poi vi farete senza sogni. Non sarà di compagnia, gagliardo che coi sogni non sa più parlare. Tanti la carovana ormai sfuggita via, il prezzo dell'orgoglio e nell'errore sprofondare. Ma nelle poltrone armate di menefreghismo strisce un canto vuoto di dai senza identità. Dico non sarà poi male un po' d'opportunismo, grazie ma declino troppo fuori la mia integrità. Non correte, non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte, non scappate via, nel fango del benessere spendete la vita. Tra voli disperati di fantasmi e falsi giorni. Non correte, non scappate via, svegliatevi pagliacci, prima o poi vi farete senza sogni. Un altro treno è ripartito. Io vi lascio il testamento di un amor dal sogno inseguito. Col sorriso ripartirò con voi. Avanti, avvicinatevi, nel cuore nessuno si vergogni. Guardate, guardate, su non scappate via. C'è un buffone armato di poesia che danza ancora coi suoi sogni. viaggi nello spazio. Sì, però parla anche normalmente. Vabbè, no, volevo entrare un po' in clima, capito? Cioè, ma non questa... serve. Cioè, era un po' così, cioè come se stessimo viaggiando veramente. Vabbè, benvenuti a tutti, io sono Alessandra e parliamo del viaggiando nello spazio. Cioè, praticamente mi ha già escluso, capito? Sì, cioè, sì. Io sono DJ Resident. Hai già detto troppo, cioè, ragazzi. Sono DJ Resident e già mi ha escluso. Ciao Alessandra. Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Tassello. Questa è una nuova iniziativa promossa dallo spazio e dal tassello. E dove ci porti quindi, Alessandra? Questa volta vi porto a Genova. È la nostra, il nostro primo incontro. Si va a mangiare il pesto! Sì, anche si può anche mangiare il pesto. Si andrà domenica 10 luglio e si andrà a Genova all'Acquario e le emozioni nell'entroterra. Il ritrovo sarà alle 6:15, tutti qui puntuali, davanti allo spazio anteprima di Viale Lombardia 30. E la partenza è sicuramente in bus. E la visita è sia al porto, quindi all'acquario, che alla biosfera e alla foresta dei colibrì. Oppure chi vuole, al Vigo e all'ascensore panoramico. Poi il pranzo, io volevo sottolineare, è all'interno dell'acquario ed è compreso nel prezzo. Per chi vorrà invece, subito dopo la visita all'acquario, potrà venire insieme a noi per l'entroterra di Genova, tutto questo a piedi, sul lungomare, e cominceremo con visitare la casa di Cristoforo Colombo, il borgo dei pescatori, il borgo di Bocca d'Asse, molto turistico, il museo di De André in Via del Campo e tutto quello che sono le viettine e l'entroterra di Genova. La partenza per il ritorno alla volta di Saronno sarà alle 19. Mi raccomando, il bus non aspetta e io credo di aver detto quasi tutto. Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. Volevo sapere, giusto per i nostri ascoltatori, quanto costa venire in gita? Ecco, questo ancora non l'ho detto, costa 50 euro il trasporto, gli ingressi e il pranzo compreso. Quindi è un all inclusive. Esatto, sì. Minchia, ma come tutte... parlo bene l'inglese, cazzo. Tutte le nostre gite costeranno 50 euro. Cercherò di rendere più compreso possibile ogni ingresso e ogni pranzo e ogni trasporto per tutte le iniziative che avremo. Quindi se volete partecipare, mi raccomando. Non se volete, devono partecipare. Sì, più sì, numerosi io possibili. Spero siamo numerosi per riempire un intero pullman. Mi raccomando, la prenotazione è obbligatoria entro il 16 di giugno. Voi potete contattare lo spazio anteprima direttamente venendo qui, chiedere di me Alessandra, oppure andare su Facebook direttamente allo spazio anteprima e chiedere informazioni, oppure direttamente dare l'ok per la prenotazione, poi ci mettiamo d'accordo qua con un contatto diretto. Ma non penso che Genova sia l'unica data, giusto? Hai qualcos'altro da proporci? No, io ho in programma qualcos'altro, esatto, la domenica 17, sempre di luglio, ho in programma di portarvi a Gardaland. Bella che si va a fare casino sulle montagne, sì, dai, russe. Il parco divertimenti più grande d'Italia, perché non andare? Allora, il ritrovo è sempre alle 6:45 davanti allo spazio anteprima, ricordo sempre Viale Lombardia 30, qui a Saronno. E i partecipanti potranno godere autonomamente le attrezioni del parco. E il pranzo questa volta non è compreso, però se volete si può pensare di fare un pranzo al sacco e poi ci mettiamo d'accordo e questo poi lo decidiamo tutti insieme. Oppure chiaramente si può acquistare lì al posto. Comunque il ritrovo, una volta visitato tutto il parco, è alle 22, quindi una grande fetta di giornata la possiamo godere lì al parco tutti insieme. E mi raccomando, le gite saranno possibili con un minimo di 20 partecipanti. A oggi per Genova siamo già alla metà del minimo dei partecipanti, quindi siate numerosi a prenotarvi, perché più siamo più ci divertiamo. Benissimo Alessandra, io ti ringrazio. Ma grazie a voi. Rimani qua perché però fra poco ci sarà il panino, cioè, ci sarà sempre un panino che ti dicevo prima, sai che buono che è, madonna lua Carmine. Dicevo panin spazio, mi si è incartata una consonante tra il palato e la lingua, quindi è stato un po' un casino. Rimani qua con noi, ti dicevo. Sì. E abbiamo selezionato apposta una canzone proprio da viaggio. Ascoltiamola. Signori, Camini, Insula Dulcamara. Per ogni sorriso che si spegne, altri più grandi e più sinceri da venir. Quante volte davanti a un bicchiere di vino a gustarti ricordi che nessuno ti può inquinare. Sei fortunato se hai un amico da abbracciare, sei fortunato se hai ricordi da condividere e raccontare. Le nostre braccia sono come i cammini di montagna, neanche il pianto più sincero, più violento che li bagna li spegnerà. Aperte, dirette ad un senso da trovare. Poi una mano ti sfiora la guancia e tutto comincia e ricomincia a rischiarare. Le nostre braccia sono come i cammini di montagna, neanche il pianto più sincero, più violento che li bagna li spegnerà. Adesso è arrivato il momento che tutti attendono. Parispazio! Sigla! Venghino, signori, venghino! Si affrettino! La carovana sta partendo! Ciao a tutti, di nuovo dalla signorina buonasera, ovvero da me Alessandra. Questo è il Palinspazio dal 13 al 27 di giugno. Partiamo lunedì 13 con il caffè letterario, l'iniziativa dalle ore 21. E leggeremo Lo strappacuore di VR. Poi sarà direttamente sabato 18 la mostra di pittura con i quadri di Claudia Confortino fino al 26. Il 20 invece, lunedì, ci sarà il Cineforum con il prezioso Umberto. E il 27 ancora il caffè letterario Lolita di Nabokov, sempre dalle 21. Io ringrazio tutti e rinnovo l'appuntamento alla volta prossima. Lascio un margine di sicurezza tra i tuoi alibi e la mia salvezza. Faccio un passo indietro quanto basta, ma ti giuro, non lo faccio apposta. È che sono come te,